Delicate Tone. Taka Delicate Kita Taka Delicate Taka. Taka Delicate Tone. Taka Delicate Kita Taka Delicate Taka. Delicate Taka. Delicate Taka. Delicate Taka. Delicate Da. Delicate Deep. Delicate Dome. Delicate Nome. Delicate Kita Taka Delicate Da. Ding ding ding. Taka Taka Ding. Da. Taka Taka Ding Ding. Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Delicate Takaton, Delicate Takaton, Delicate Takaton, Taka Delicate Takaton, Taka Delicate Takaton, Taka Delicate Takaton, Kita Taka Delicate Takaton, Kita Taka Delicate Takaton, Kita Taka Delicate Takaton, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Taka Delicate, Delicate tak delicate din tom taka taka delicate taka tari tom taka taka delicate taka taka tom di tom taka taka delicate taka tari tom taka taka delicate taka taka tom di tom taka taka delicate taka tari tom taka taka delicate taka taka tom tom ta din din ta tom tom delicate tak delicate din delicate ta din din delicate tak din tom taka taka delicate taka taka tom di tom taka taka delicate taka tari tom taka taka delicate taka taka tom di tom taka taka delicate taka tari tom taka taka delicate taka din tom taka taka delicate taka taka tom delicate ta delicate din delicate tom delicate ta delicate delicate din delicate delicate ta tom tom delicate delicate delicate din ta delicate delicate delicate din delicate delicate delicate delicate tom tom taka taka delicate taka tom tari tom taka taka delicate taka tom di tom taka taka delicate taka tom tom delicate taka delicate din din taka delicate taka delicate din ta tom keta taka delicate taka takita tom keta taka delicate taka ta tom keta taka delicate taka ta ta ding ga ding ta ding ding delicate ta delicate din tom taka taka tom taka taka tom keta taka delicate taka ta tak tak ta ding ding delicate taka delicate din taka delicate taka delicate taka delicate taka delicate taka delicate da delicate taka taka delicate taka taka delicate taka taka delicate taka taka delicate taka taka delicate taka taka tom taka taka delicate taka tari tom taka taka delicate taka din tom taka taka delicate taka dolom ke tom da tom di tom taka taka delicate taka tari tom taka taka delicate taka din tom taka taka delicate taka dolom ke tom da tom da tom di tom taka taka delicate taka tari tom taka taka delicate taka din tom taka taka delicate taka dolom ke tom di tom taka taka delicate taka dolom ke tom di tom taka taka delicate taka dolom ke tom da tom dolom ke tom da tom dolom ke tom tam di tom taka taka delicate taka taka tom ke taka di tom taka taka delicate taka taka tom ke taka delicate di tom taka taka delicate taka taka tom Dati kita tom, dati kita tom, dati kita tom, taka taka tom, taka taka tom, taka taka tom, kita taka kita kita tom, kita taka kita kita tom, kita taka kita kita tom, da.